got a slick chick. See, a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click a slick chick. Hey, hey, hey, hey. The hot heels on for the baby blues. What a sack. Hey, hey, hey, hey. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, hey, hey, hey. It was a night. Hey, hey, hey, hey. Everybody stop, we're on a dime to look. Hey, hey, hey, hey. Even my heart, my heart got a shook. Hey, hey, hey, hey. She's my clickety click a stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Ride. Oh man, see a nine, I said a eye. Gotta stitch it, see. It's a neat trick, but see what I make me tick. Mama, yeah. Clickety click a stitch it. Yeah, don't you know she's a stick. Mama. Mama, clickety click, I'll fix it. Yeah, yeah. I got a crazy little chick. I don't you know she's slick. Rieccoci con un leggero ritardo che mi perdonerete a una nuova puntata di Slick Chick, sempre su Radio Wombat ovviamente, o Wombat Radio come preferite, come vi piace di più. Oggi che vediamo che giorno è, il 3 maggio, prima puntata del maggio del 2017 e come ci si aspetta dalla primavera, anche se questa primavera devo dire è un tantino anomala, è un tantino invernale, in realtà la primavera augura il sonno, ci parla di momenti piacevoli in cui dormire e quindi anche a Slick Chick parliamo di sonno, ma in realtà parliamo di mancanza di sonno, parliamo dell'insonnia. Come sa chi mi conosce, chi deve fare cose con me, il sonno è un argomento che mi sta molto a cuore, per cui sono sensibile al tema insonnia, insomma lo saprà bene chi mi conosce appunto. E, del resto insomma si può non dormire per ritmi imposti o per ritmi scelti, si può cercare di dormire fino allo sfinimento senza riuscirci, e si può non dormire perché si hanno cose molto più belle da fare durante la notte, c'è chi è più creativo, devo dire anche io in effetti, la mattina faccio schifo, la notte produco molto meglio. La notte insomma è un momento ricco da riempire in molti modi e spesso il sonno non è uno di questi, ma questa cosa a volte è piacevole, a volte no, come sa bene chi soffre di insonnia e chi non è assolutamente contento di non riuscire a dormire. Oggi a Slick Chick prenderemo un po' in esame vari modi di affrontare l'insonnia, dei motivi più che altro perché non si dorme, i motivi belli e i motivi brutti, e finiremo insomma un po' con l'arrivare a augurare un po' il sonno, perché in fondo c'è bisogno di sonno, tutti ne hanno bisogno ed è giusto che lo si abbia, io almeno la penso così. E iniziamo subito giusto per stare proprio sul pezzo, con un brano di Andy Stott che si intitola Sleepless, appunto mancanza di sonno, giusto per non lasciare niente all'intuito. Andy Stott è un compositore di elettronica di Manchester e degli ultimi anni, insomma è un animatore della scena elettronica di Manchester degli ultimi anni. Nel 2014 tra l'altro ha fatto uscire un album, Faith in Strangers, secondo me molto bello, andatevelo a sentire, ve lo consiglio. Uscito sempre per la Modern Love, che è un'etichetta di Manchester che fa cose dub, elettronica varia, tecnazza e quant'altro, e piuttosto interessante secondo me. Beh, insomma, secondo me, secondo altri più che altro. E anche questo album che contiene Sleepless, il brano che vi faccio sentire, è sempre edito dalla Modern Love, ma si intitola Luxury Problems ed è un album del 2012. Quello che ci ascoltiamo è un tranquillissimo e delicatissimo brano che appunto racconta della mancanza di sonno. Andy Stott. Thank you. Tranquilla fino a un certo punto, vabbè, forse era un po' ossessiva e ci fa capire come mai poi la gente non dorme, va bene, ma dopo Andy Stott proseguiamo lesti con un altro pezzo, un tantino trash, sì, lo devo ammettere, effettivamente si tratta dei Fifth Dimension. E il pezzo si intitola Last Night I Didn't Get to Sleep at All, un brano del 1972 che è stato composto proprio per i Fifth Dimension da tale Tony McCauley, che è un compositore della scena soul anni 70, un compositore inglese, e che l'ha composta mentre si trovava a Tokyo. E McCauley soffriva un sacco il cambiamento di fuso orario tra appunto Londra e Tokyo, e racconta: stavo sveglio tutta la notte e dormivo tutto il giorno, quindi una notte mi sono alzato e ho scritto questo pezzo. In realtà McCauley ne compose solo la melodia, mentre il testo lo scrisse una volta tornato a Londra mentre si trovava su un taxi fermo nel traffico. Giusto per. E vabbè, compone questo pezzo e a questo punto McCauley manda un demo con il brano ai Fifth Dimension, che gliela approvano e dicono che gli piace un sacco, fighissimo, bellissimo, bella storia, piglia bene. Qualche tempo dopo, sempre il nostro McCauley riceve una telefonata alle 2 del mattino, perché i Fifth Dimension, madonna è difficilissimo da dire, i Fifth Dimension, ecco, vabbè, non si erano ricordati del fuso orario tra Londra e l'America, simpatia, e gli dicono che no, non si può più fare, perché il testo parla di sonniferi e pillole per dormire, e no, proprio non si può parlare di droghe nei loro testi. Interessante che se ne siano accorti, cioè ci abbiano messo un po' per accorgersene, ma si vede che qualcuno gliel'ha suggerito. Ma tant'è, allora McCauley alle 2 del mattino, ricevuta questa telefonata, immagino contento proprio come una Pasqua, si alza dal letto e si mette a riscrivere tutto il testo, togliendo riferimenti ai sonniferi. Lo fa di malavoglia, evidentemente, ma lo fa. La settimana dopo i Fifth Dimension registrano il pezzo, lasciando intatti i riferimenti ai sonniferi. E beh, quanto sonno perso, povero, povero Tony McCauley. Tant'è, è andata così, e quindi evidentemente questo pezzo nasceva per una mancanza di sonno e finiva con una mancanza di sonno, e insomma il sonno pervade, o meglio appunto la mancanza di sonno pervade questo testo fin nel midollo. Il pezzo è un po' così, trash, ve lo annuncio già da ora, lo ammetto, ma obiettivamente è necessariamente da ammettere quando si parla di insonnia. Last night I didn't get to sleep at all, if I didn't mention. No, I lay awake and watched until the Sono tanti motivi, dicevamo, per cui si finisce con lo stare svegli di notte. I Talking Heads parlano dei problemi che si hanno quando si è deciso di fare figli, oppure dei figli che vogliono rimanere alzati fino a tardi. Dipende un po' dai punti di vista. Questa infatti era Stay Up Late dei Talking Heads, appunto, dall'album Little Creatures del 1985. E sì, era una lamentazione di probabilmente un piccolo pargolo che voleva essere alzato fino a tardi. E continuiamo, e adesso cambiamo decisamente tono, e attenzione, prendete i fazzoletti e ricomponetevi, perché adesso abbiamo scherzato, ma adesso si fa sentire un pezzaccio. Pezzaccio di Leonard Cohen con il strafamoso, notissimo, Famous Blue Raincoat. Il disco si è Songs of Love and Hate del 1971, e il significato di questo brano ha fatto arrovellare, direi, molti critici, maledetti critici che rovinano sempre tutto, come gli hipster, come dice Amanda Palmer. Evidentemente si tratta di un triangolo amoroso, evidentemente c'è un uomo con impermeabile blu che ha affascinato una donna e poi l'ha lasciata bruscamente, e c'è un altro uomo, o magari lo stesso uomo, perché spesso molti volti convivono in una stessa pelle, che passa una notte insonne a chiedersi come starà l'uomo dall'impermeabile blu, dove se ne sarà andato, se è stato perdonato, se si strugge anche lui, se si è portato via qualcosa dalla camera dell'albergo dove ha lasciato questa Jane, e qualcosa che ancora rimpiange. Nella puntata dedicata al Chelsea Hotel raccontavo di Cohen e della notte passata con Janis Joplin e chissà quanto di questo è rimasto appiccicato all'impermeabile blu di quell'uomo di cui parla questo brano. Di questo classico di Leonard Cohen esiste anche una versione italiana interpretata da, attenzione, attenzione, Ornella Vanoni. Era tanto che volevo dire questo nome in questa trasmissione, no, non è vero, ma mi è toccato farlo, e curata peraltro da Fabrizio De André e Sergio Bardotti. Il titolo italiano è La famosa Volpe Azzurra, boh, chissà come mai hanno tradotto così, non c'è dato di saperlo, ed è incluso nell'album del 1980, appunto della Vanoni, che si intitola Ricetta di Donna. Madonna, questi nomi sono veramente poesia. La canzone... Era sarcastico, eh? Sì. La canzone è riportata ovviamente al femminile, beh, ovviamente fino a un certo punto, ma sì, è riportata al femminile e Milano prende il posto di New York. Ma direi dal diavolo all'acqua santa o viceversa, anche Lalli ne ha fatta una sua versione in italiano. Lalli, appunto, cantante dei Franti, che vi ho citato anche la settimana scorsa. Una versione sospesa e molto bella, secondo me, che potete trovare nel disco Tempo di Vento, disco che, se non conoscete, ve lo consiglio veramente tanto. Ma adesso basta, prendiamoci un minuto di concentrazione, beh, qualche minuto in più, direi 5, per ascoltarci Famous Blue Raincoat di Leonard Cohen. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train then. You came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. And his woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Tanti genitori erano che insistono sul fatto che il figlio è cosa loro e che ora deve andarsene a dormire perché così hanno deciso, punto e basta. I Radiohead con Melatonina, appunto. L'album era Ok Computer del 1997, una traccetta buttata un po' lì e un po' dimenticata, che, beh, devo dire, comunque è difficile che non scompaia dopo Famous Blue Raincoat di Leonard Cohen, ma è un mio gusto personale. Cambiamo decisamente ritmo, anche tono, perché beh, rimaniamo sempre in questa notte un po' insonne dove non vogliamo andare a dormire oppure vorremmo ma non ci riusciamo. E arriviamo ai Beastie Boys. Beastie Boys che hanno fatto un pezzo nel 1986, lontano 1986, che si intitola No Sleep Till Brooklyn. Dall'album License to Heal, che beh, come dire, un omaggio, forse meglio dire una presa per il culo, direi decisamente poco velata, ai metallari e a un po' tutto il loro mondo. Il titolo è probabilmente un riferimento, appunto, beh, sì, molto probabilmente direi un riferimento a No Sleep Till Hammersmith, il disco dei Motörhead, anche se oltretutto poi, oltre a questo riferimento, in un'altra tonalità la melodia ricalca, direi abbastanza pesantemente, TNT degli AC/DC. E poi tutto il brano è infarcito di citazioni e riferimenti vari, li sentirete. Il video invece è una parodia dell'orribile metal glam anni 80. Beh, divertente comunque da vedere, se non ve lo ricordate o non l'avete mai visto, vi consiglio di guardarvelo. Il riff di chitarra, io vi devo confessare che odio tantissimo le pirole, insomma i riff di chitarra elettrica, mi fa venire le bolle immediatamente questo riff, non lo posso ascoltare. Questo riff è suonato da Kerry King, il chitarrista gli Slayer. L'ho detto, che pare non fosse proprio entusiasta di suonare in questo brano, chissà come mai, anche se dichiarò di non ascoltare mai niente che non fosse metal e affini e che quindi non aveva idea di chi fossero i Beastie Boys, perlomeno non usava ascoltarli. E beh, sì, ci ascoltiamo questa polemica No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys. City to city. E sì, e siccome Slick Chick e in generale su Radio Wombat siamo sempre sul pezzo, mi aggancio subito a questo brano dei Beastie Boys che abbiamo appena finito di ascoltare per dare voce alla nostra nuova rubrica, beh sì, la seconda puntata direi di questa rubrica dentro all'interno di Slick Chick, dedicata alla rassegna stampa di Arcorella 2000. Vi ricordo la fonte ufficiale a arcorella2000.wordpress.com, ma insomma se non volete perdere tempo a leggere con i vostri occhi potete aspettare ogni mercoledì che io vi estrapolo le migliori notizie, i migliori contenuti da questa fonte di informazione autorevole dal mondo dell'hardcore e affini. Siccome appunto ci vogliamo collegare a questo pezzo dei Beastie Boys sul metal, mi sento di leggervi subito questa notizia che ci dà Arcorella 2000, ovvero Pasquetta, Cimitero si conferma la meta preferita dai metallari italiani. Archiviata la tradizionale gita di Pasquetta, i metallari italiani si dimostrano ancora tradizionalisti per quanto riguarda la scelta della meta e confermano il cimitero come luogo preferito per staccare dalla routine quotidiana. Secondo un sondaggio commissionato per l'occasione, infatti, più del 70% dei capelloni del bel paese ha rinunciato a spiagge o parchi affollati, preferendo il silenzio perenne dei sepolcri, senza tuttavia rinunciare ai barbecue e al consumo più o meno moderato di alcolici. Sono molte le testimonianze che riferiscono come, passando nelle vicinanze dei principali cimiteri, fosse possibile percepire chiaramente odore di carboni ardenti fin dalle prime ore della mattinata, seguito da quello inconfondibile di carne e verdure grigliate. L'assalto pacifico è durato per tutto il giorno e ne sono prova anche le centinaia di immagini tra le tombe pubblicate sui social network, comprese alcune irriverenti, che ritraevano esponenti del mondo metal tricolore banchettare usando lapidi al posto dei tradizionali tavoli da picnic. Nonostante le scelte di cattivo gusto, comunque, non si sono registrati casi di festeggiamenti oltre il limite della legalità. I metallari italiani si sono dimostrati mediamente educati, nessuna tomba è risultata oltraggiata o scoperchiata e la marea nera è tornata mestamente a casa in serata, consapevole ancor più di prima che prima o poi si muore tutti. Quindi questo era l'articolo di questa settimana tratto da Arcorella 2000, ce ne sarebbero molti altri da condividere con voi, miei simpatici amichetti, ma non voglio svelare tutto subito e mi riservo di leggervi i prossimi articoli nelle prossime rubriche, perché se no poi non so più cosa dirvi. Quindi proseguiamo con la nostra scaletta e arriviamo ai Kinks. Kinks, un classicone, Kinks, con Sleepless Night, appunto Notte Insonne, dall'album Sleepwalker del 1977, che ci racconta quando i terribili vicini di casa non ti fanno dormire. Oh, there's a room. Questo brano era dedicato per forza di cose al rovescio della medaglia e i suoi due conduttori prog 15 e prog 27, di cui tutti sentiamo un sacco la mancanza. Invito tutti i vombati e le vombattesse in ascolto a sommergere la posta del Wombat di richieste e di sollecitazioni ai nostri due beniamini perché riprendano in qualche maniera le trasmissioni o il rovescio della medaglia bis o qualcos'altro, insomma, perché tutti ne sentiamo troppo la mancanza. E la posta, che vi ricordo, è postawombat@insiberia.net, e già che ci sono vi ricordo anche gli altri contatti su tutti: il sito wombat.noblogs.org, dal quale potete accedere a un po' tutti i nostri contenuti, i podcast, le trasmissioni, ma se siete veramente delle persone argute, intelligenti e che la sanno lunga, ascoltarci in diretta con il tastone giallo sulla colonna di sinistra. Se mi state ascoltando in questo momento già lo sapete, se mi state ascoltando in differita vuol dire che siete disattenti, non siete veramente degli aficionados. Male, molto male. Proseguiamo e arriviamo a Moby con un brano che si intitola Sleep Alone, dell'album 18 del 2002. Moby spiega al New York Times in un'intervista: mi piace passeggiare nel mezzo della notte quando tutto è deserto e calmo. Dargli torto, direi. Ti vengono in mente delle cose, luoghi vaghi o immagini che poi io traduco in parole. L'immagine che avevo in mente per questo testo erano due persone che sono morte insieme e che girano in qualche modo intorno ai posti in cui hanno vissuto. Una sorta di città di sogno, una città e anche un'isola su cui galleggia questa coppia. Un bellissimo pezzo, secondo me, Sleep Alone di Moby. Questa settimana, lo so, ve l'avevo già fatti sentire la settimana scorsa, ma che si deve fare? Il pezzo era If Only Tonight We Could Sleep, dall'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me del 1987, meraviglioso album, secondo me. I fan e i critici più darchettoni e emo insistono che il sonno a cui si riferiscono i Cure sia la morte, legata all'ideale romantico dell'amore eterno. Bah! Cioè, secondo me è un'idea veramente stupida e malsana, ma vabbè, questo dicono questi stupidi darchettoni, ma noi non la pensiamo secondo me così, perché non direi che riusciamo a valutare i Cure un po' meglio di così. Proseguiamo, ripigliamoci un pochino dopo questi toni un po' appunto cupi, effettivamente, e arriviamo a Bobby Lewis con un brano che si intitola Tossing and Turning. Bobby Lewis, una discreta star dell'R&B anni 60 e oltre. Bobby Lewis impara a suonare il piano a 6 anni, nonostante grossi problemi di vista. Viene adottato a 12 anni e si trasferisce a Detroit, dove cresce sotto l'influenza del blues e del rock and roll, come evidentemente si può ascoltare nei pezzi che ci ha tramandato. Questo che ci ascoltiamo è un singolo uscito nel 1961, che compare anche tra l'altro nella colonna sonora di Animal House, rifatto da molti, tra cui le Marvelettes e Supremes, insomma, un brano direi decisamente usato. Un brano che inizia con I couldn't sleep at all last night, non riuscivo a dormire per niente la scorsa notte, e il titolo potrebbe essere tradotto, Tossing and Turning, appunto, con qualcosa come girarsi e rigirarsi, e descrive tutta l'inquietudine di qualcuno che proprio non riesce a prendere sonno. I couldn't sleep at all last night, just thinking of you. It's on the floor. Turn my pillow upside down. I never did before. 'Cause I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning all night. Jumped out of bed, turned on the light, I pulled down the shave into the kitchen for by. Roll up the sheet, turned off the light. I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Sì, questo appunto, come dicevamo, era Bobby Lewis con Tossing and Turning, e mi stavo distraendo perché stavo guardando la, l'agenda del Wombat e per capire cosa dirvi dei prossimi appuntamenti della settimana, come al solito. Non ce ne mandate tanti e dobbiamo scovarli da soli, maledetti, siate maledetti. Però qualcosa sì, qualcosa sappiamo. Ad esempio, partendo da venerdì 5 maggio, vi segnalo che alla Polveriera, dalle 16 alle 23, ci sarà un acoustic jam session. In particolare dalle 15:30 c'è il ritrovo dei musicisti. Affrettatevi, affollatevi con tutti i vostri, le vostre carabattole musicali, arrivate lì, vi organizzate con gli altri musicisti e vedete cosa, come mettere sulla jam. Dalle 18:30 parte appunto la mega super jam session, e dalle 19, mentre i suddetti musicisti si avvicendano, vi potrete intrattenere con un aperitivo a bordo palco, benefit sempre per i progetti, i mille progetti direi della Polveriera liberata. Invece sabato 9 maggio, appuntamento molto importante che mi insomma ci tengo a sottolinearvi, ci sarà dalle 14 in poi la diretta del Wombat qui appunto sulla vostra radio preferita, del corteo che c'è in valle, in Val di Susa, corteo Notav, con la marcia da Bussoleno a San Didero. Sì, dalle 14 ci avvicenderemo un po' tutti ai microfoni per raccontarvi cosa sta succedendo con vari interventi, interviste dall'assù e sì, tutto il resoconto minuto per minuto o quasi di tutto quello che sta succedendo. Chiaramente se invece potete andare in valle, ovviamente fatelo, ci sono anche, penso ancora, disponibili posti sul bus organizzato dalla Piana contro le nocività, ma se non potete proprio andare, accendete il vostro computer, il vostro cellulare, tablet, marchingegno vario, e puntatelo su Radio Wombat dalle 14 in poi per essere aggiornati su cosa sta succedendo in valle. Invece, sempre per chi rimane, i pigri e o gli impossibilitati che rimangono a Firenze, in Viale Corsica, o meglio nel parcheggio in fondo a Viale Corsica, nell'area cani autogestita, dalle 15:30 alle 22, sempre del sabato 6 maggio, vi ricordo, Rap Your Sunset, ovvero il torneo basket 3 contro 3, più musica, panini, aperitivi, giovialità. Invece al K100 di Campi Bisanzio, sempre 6 maggio, sempre sabato, serata Sky, Rocksteady, Boss Reggae, Two Tone, con Rudy Pressure Boys da Roma e La Svolta, che ben conoscete, di Firenze, e Kaya DJ. Questo per quanto riguarda la settimana, direi che è abbastanza ed è tutto peraltro, perlomeno tutto quello che mi è pervenuto e che riesco a leggere qui sulla Wombat Agenda. Proseguiamo, ci mancano ancora circa tre pezzi, spero di non avervi fatto addormentare, ma d'altra parte si parla di insonnia e quindi spero che siate ancora svegli. E a questo punto vi faccio ascoltare un pezzo intitolato Sleepless Nights, anzi al plurale, ovvero Notti Insonni, che è un brano originariamente degli Everly Brothers del 1960, Everly Brothers, ovvero Isaac Donald, detto Don Everly, e Philip, detto Phil, madonna, una fantasia incredibile, Everly, i due fratelli Everly Brothers. Però quella che vi faccio ascoltare è la versione di Eddie Vedder di Pearl Jam del 2011, tratta dall'album Ukulele Songs, dove appunto Eddie Vedder, tra l'altro aiutato da Glenn Hansard, ci fa la sua versione di Sleepless Night all'ukulele. Ascoltatevela. Through the sleepless nights I cry for you and wonder who is kissing you. These sleepless nights will break my heart in two. Somehow through the day Questo era Eddie Vedder featuring Glenn Hansard con appunto Sleepless Nights. Proseguendo, ci mancano giusto due pezzetti ancora da ascoltarci e sì, per non spezzare questo clima un po' di preaddormentamento, sì, a sorpresa finiamo sui Chemical Brothers, ma non quei Chemical Brothers violenti e disturbanti che vi potete immaginare, ma qualcosa di un pochino più tranquillo. Il pezzo è Sleep From Day con la voce di Hope Sandoval, l'album è Surrender del 1999 e il pezzo contiene tra l'altro alcuni sample non accreditati da Deep Blue Day di Brian Eno. E boh, potrebbe essere un'ottima colonna sonora, sai, per quei pomeriggi pigri in cui non ti vuoi proprio alzare dal letto. Alcuni, tra l'altro, l'hanno anche visto come un omaggio piuttosto esplicito a Sunday Morning dei Velvet Underground. Non lo so se è così, ma in ogni caso è un pezzo godibilissimo, direi. Sleep From Day dei Chemical Brothers. I know just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. I think I left your backseat. Beautiful eyes. Bene, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Slick Chick, sempre su Radio Wombat ovviamente, e vi lascio quindi andare a dormire o andare a non dormire come preferite, come vi sentite. Però vi lascio, prima di lasciarvi, vi faccio ascoltare un ultimo pezzo che è giustamente, secondo me, un pezzo della buonanotte, dopo tutto questo penare, tutto questo angosciarsi per il sonno, ci va un pezzo della buonanotte, infatti si intitola proprio Good Night ed è un brano di PJ Harvey dall'album Four Track Demos del 1993, siamo proprio all'inizio del percorso di PJ Harvey, è un album che raccoglie 8 demo registrati in casa su un vecchio 4 piste. Ecco, oggi in questa scaletta c'era ben poco di autoproduzioni, purtroppo è andata un po' così, ma almeno vi ho ascoltato un ultimo pezzo decisamente casereccio. E vi saluto quindi, vi do appuntamento al prossimo mercoledì per la seconda puntata di maggio di questo 2017, sempre con Slick Chick, sempre su ovviamente dai microfoni di Wombat Radio. Mi raccomando, sabato ci risentiamo con chi vuole e chi può per la diretta del Corteo della Valle, sempre su Wombat Radio. Ciao ciao! Thank you.